Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:18 minuti, andiamo in onda, caro Oscar, con la porta aperta, qua un mercato, ormai è la vigilia di Natale, cioè... Ormai è diventato... La musica... I preti con le amanti, che le prostitute... Preti con le amanti... Hai avuto tanta di quell'attenzione per questa vicendina, dai, San Lazzaro, alzati e cammina, e quindi è successo così. In che senso alzati? Beh, la vicenda di Lazzaro, ah, morto, sì. Il signore, alzati e cammina, il parroco ha dato un'interpretazione diversa, ma insomma voleva fare alzati pensando a un pezzo... È Natale! Oscar! Beh, in Natale, infatti, bisogna essere comprensivi verso chi pecca e verso chi redime. Il bambinello nasce anche per quel parroco lì, lo sai meglio di me. Certo, pensando alla povera che lui faceva cosa, insomma, spero che il bambinello remuneri soprattutto la povera vittima. Però, detto tutto questo, allora siamo in questo 23 dicembre. Questo 23 dicembre ci dà tre grandi santi nazionali, perché noi ci dimentichiamo che la fede è una cosa anche incardinata nei paesi, grandi paesi cattolici. Per esempio, oggi è un grandissimo, uno dei santi più cari alla fede dei polacchi, perché San Giovanni Canzio, a cavallo tra il 400 e il 1500, politico, filosofo, docente universitario, precettore di re, carissimo a Giovanni Paolo II, San Giovanni Canzio. Poi c'è una altrettanto cara, ma questa volta ai canadesi, alla chiesa canadese, ai fedeli canadesi, perché Santa Maria Margherita di Uville, capirai perché. A questo caso vale Maria o... No, vale Margherita, Margherita. Comunque, anch'essa uno dei cardini della fede in Canada. E per i francesi, oggi è Saint-Yves de Chartres, un grandissimo abate e vescovo del 1100, e a lui si deve l'inizio della cattedrale di Chartres, che per chiunque l'abbia vista è una delle meraviglie dell'umanità, del gotico. Allora, da ricordare oggi nasce la Repubblica Cispadana nel 1796, da cui il tricolore italiano. Nel 1978 nasce il Servizio Sanitario Nazionale. E nel 1999 nasce il governo D'Alema, li ho messi in decalage, così si capisce. Auguri tra chi compie gli anni a Carla Bruni, a Morgan e a Roberto Cingolani, grandissimo fisico italiano che è alla testa del l'IT di Genova. Allora, caro Oscar, intanto hai portato il portafoglio oggi o te lo sei casualmente dimenticato a casa proprio oggi? No, sono casualmente dimenticato stamattina leggendo alcuni giornali, poi alcuni mi sono girate le scatole, perché alcuni colleghi, invece di riflettere sul fatto che la vicenda MPS tutto ci può consentire tranne che di menar vanto in Europa, si bevono un po' questa tesi ufficiale per la quale adesso daremo il pieno ristoro agli obbligazionisti, quindi li liquideremo le regole europee perché noi siamo superiori. Non credo che ci sia molto motivo di vanto, perché MPS è una... un museo degli orrori, se posso dire, ma di molti e molti anni. Comunque adesso speriamo che l'intervento faccia un governo che non crei ulteriori problemi sfidando l'Europa. Ma tra l'altro convochiamo anche i nostri ascoltatori, sapete che potete parlare di tutto, 800 24 0024. Vi piace questo, insomma, salvataggio dello Stato da parte dello Stato di Montepaschi, cosa che ormai era abbastanza scritta negli ultimi mai giorni. Scritta. Anzi, il governo troppo l'ha rinviata, e comunque una banca in cui la politica è un certo partito e alla origine di tutti i guai abbastanza negli anni. E tra l'altro, ovviamente, questi 20 miliardi, i primi saranno Montepaschi, poi sono 20, si guarda già, e qualcuno dice, beh, e che succederà a questo punto anche altre banche, se ne useranno altri per istituti. Le due venete, se ne useranno per le quattro risolte che hanno ancora fame di capitale perché nessuno se le prese, e c'è una certa lista di banche di questo paese che non aveva, cari ascoltatori, come vi hanno detto, il sistema bancario più sano del mondo, i regolatori bancari più trasparenti del mondo, no, non ce le aveva, e infatti, come vedete... Tra l'altro, se volete, anche l'altra notizia che c'è sui giornali, ma vedi Oscar, a me è colpito il procuratore di Lecce, che quando su questo jihadista dice andrebbero arrestati, perché spesso si dice chi lo dice è un populista eccetera, invece forse ci sono gli strumenti per non permettere che 50.000 espulsi in Europa girino così liberamente, anche perché questa vicenda poi ci colpiscono, si è radicalizzato, come giustamente richiamavi prima la rassegna stampa e tutti i giornali scrivono, nel carcere italiane. Però il problema è che, come si vede anche in Germania, il fatto di essere uno senza titolo accertato legale di permanenza nei paesi europei, ed essendo per di più nel frattempo sospettato, perché apprendiamo che i servizi americani eccetera eccetera, eppure entrava e usciva liberamente, e alla fine ha fatto a quanto pare quello che ha fatto. Quindi è un problema non di un colabrodo solo italiano, è un colabrodo europeo, un colabrodo europeo, come ci ha detto il procuratore Roberti 2 giorni fa. Manca la collaborazione. Però mi ha stupito, 50.000 persone espulse in tutta l'Europa, che invece non vengono espulse di fatto e diventano dei fantasmi, e ce li ritroviamo come questo Anis Amri a colpire, di cui si sapeva tutto, la radicalizzazione, seguito, eccetera, e poi ha potuto uccidere 12 persone. E per il momento, diciamolo pure, scomparire. Ed è in fuga, questa è la cosa più importante. E dopodiché a Roma... Però, scusate, ultima cosa, è vero, noi non abbiamo subito attentati, ma anche in questa vicenda siamo terreno di passaggio, terreno di coltura, eccetera, eccetera. L'Italia, sto dicendo. Ecco, su questo ricordiamocelo bene, non siamo immuni, solo perché non piangiamo le nostre vittime, se non italiane all'estero, anche in questo caso, come già avvenuto negli attentati francesi. Scusami. Ma assolutamente, assolutamente ragione. In tutto questo, noi abbiamo il primo ospite e siamo contenti che è con noi, lo ringraziamo, perché a Roma, la notizia di qualche giorno fa, il bilancio è stato bocciato da questo ufficio indipendente, cioè l'OREF, l'organo di revisione economico-finanziaria. Allora noi abbiamo l'assessore al bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo. Assessore, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, io gliela faccio diretta la domanda, perché ho sentito parlare di... Lei ha fatto in un'intervista, ha parlato di sospetta bocciatura. Anche oggi i giornali dicono, ma c'è qualcosa forse di più profondo sotto. Cioè, pensate che ci sia stata una sorta di complotto nella bocciatura di questo bilancio? No. Pensare di complotto mi sembra veramente una parola forte. No. Il concetto è stato semplicemente questo. Abbiamo lavorato profondamente con tutti gli uffici, sia della ragioneria e con tutti i dipartimenti, perché penso che tutti voi sappiate che un bilancio di una città grande e complessa come Roma prevede un'interlocuzione fortissima con tutte le strutture dipartimentali. Parliamo di oltre 30 strutture, di 500 punti di acquisizione, e quindi cominciare a ragionare in termini di fabbisogno di liquidità e quindi anche di risorse, di impegni da dover attivare nel corso del prossimo triennio richiede un lavoro, uno sforzo incredibile. Questo lavoro è stato fatto da tutti quanti gli uffici, e il traguardo era il 15 novembre, certo. Il 15 novembre che è data appunto entro la quale va rispettata la presentazione dello schema di bilancio che è stato adottato in giunta. Abbiamo fatto, penso, un lavoro egregio. Però all'OREF non sono d'accordo, evidentemente. No, in realtà non è neanche così, perché quando poi io ho avuto la possibilità di parlare con il collegio dei revisori, ho chiesto chiaramente a loro qual era il motivo per il quale era stato... In realtà, le dico, se le ragioni sono quelle indicate nel parere, a questo punto mi chiedo effettivamente a chi compete decidere se gli spazi finanziari sono adeguati o meno, dato che per Roma Capitale esiste una privativa di legge. Sostanzialmente Roma negozia direttamente col MEF quelli che sono gli spazi finanziari, ed è questa la ragione per la quale i revisori hanno ritenuto non congrue, diciamo, quelle che erano le previsioni o quelli che potevano essere i rischi potenziali, perché sono andati non a indicare quella che doveva essere l'eventuale criticità contingente di Roma, ma una potenziale criticità che avrebbe poi influito semplicemente sui saldi finanziari, non tanto sulla capacità dell'ente oltretutto di onorare eventuali possibili contenziosi o comunque potenziali criticità. Ma, per esempio, mi pare di aver capito che c'è una sovrastima delle entrate, questa è una accusa. No, assolutamente, allora no. Le entrate da parte dell'OREF come accusa? Beh, guardi, è strano perché in realtà l'OREF dice questo, ma poi dice nello stesso momento che il fondo crediti dubbi esigibilità, che quindi il fondo che viene alimentato proprio per per queste voci dice che è congruo. Quindi assolutamente, secondo me c'è stata più che altro, da questo punto di vista io credo che non abbiano responsabilità i revisori, sicuramente hanno trovato un bilancio costruito esattamente secondo quelle che sono le esigenze e le previsioni prudenti di un'amministrazione rispetto al passato. Quindi siamo stati molto attenti, gli uffici hanno valutato attentamente quelle che potevano essere potenzialità dentate. Le faccio un esempio. Sull'altr'anno si era pensato che il giubileo avrebbe portato oltre 110 milioni di euro. Sì. Se siamo, non credo che ci siamo, ma se siamo nei limiti di quelle che erano le precedenti previsioni per gli anni che ci hanno, diciamo, che abbiamo superato, effettivamente tale previsione è ampiamente inferiore. Ecco. E allora direi che eventualmente se qualche previsione c'è stata in aumento, c'è stata sicuramente sugli anni precedenti. Mi scusi assessore, posso dire, io le 46 pagine dell'Oref le ho lette e ne ho anche scritto sul Messaggero. Allora, io premesso, mi ha colpito personalmente, per primo lo dico come osservatore, quindi non c'è nessuna cosa politica, questa volta il modo in cui l'Oref prende alla lettera e sul serio il suo compito, e per quello che mi riguarda, siccome io sono attento alla finanza pubblica, applaudo. Però in diversi passaggi l'Oref contesta non tanto la raffigurazione contabile che avete fatto, quanto il fatto che non ci siano misure necessarie proprio ad affrontare le criticità in arrivo. Cioè, per esempio, dice: è noto oramai da anni che Roma ha perso la capacità di portare a casa le entrate proprie, quelle che diventavano semplicemente delle poste in bilancio non riscosse, che di anno in anno, ma non si può più fare per la riforma del bilancio, erano residui attivi, cioè la capacità di incassare le imposte di competenza, i canoni, le tariffe, eccetera, eccetera. E di questa cosa ci sarebbe dannatamente bisogno, perché c'è bisogno di più entrate proprie, senza dover deliberare imposte nuove, ma non si riesce a incassare quelle vecchie. E qui noi non vediamo, faccio un esempio, la capacità, questo scrivono, di fare un passo avanti. Uno, due. Poi ci sono gli impegni da onorare a seguito dell'aiuto che venne a Marino, perché ricordiamo che Marino, anche lui, al primo bilancio toppò, senza aiuto del governo non riuscì a portarlo a casa. Però lì significa che ci sono i 200 milioni di rata annuale del primo Salva Roma da pagare, ma ci sono gli impegni nuovi di riduzione del deficit, e qui noi per il momento non vediamo ancora misure strutturali. Io non voglio annoiare gli ascoltatori, ma sono tutte criticità che l'Oref vede. E arriva poi al punto sollevato dal ragioniere generale, che si è dimesso dopo che si è formata la giunta Raggi, perché anche nelle municipalizzate, cioè nella holding che le controlla, ci sono criticità che possono arrivare, disse il ragioniere generale, fino a 1 miliardo di euro nel prossimo anno. L'Oref mette insieme tutto questo e dice: nella vostra proposta noi non vediamo questo, quindi significa che il 2017 può portare a una serie di violazioni e di esplosioni. A me non sembra che sia una maniera sbagliata di condurre il proprio mandato. Il problema è che mi rendo conto della difficoltà. Lei dice: abbiamo pochi margini. Sì, ma queste cose altrimenti esplodono. Voi le avete trovate in eredità. Il disastro è che bisognava saperlo e che bisogna avere delle risposte per ciascuna di queste cose. O pensa che la maniera di guardare le criticità sia un fuoriseminato per quelli dell'Oref? Guardi, la ringrazio per questa domanda, effettivamente è abbastanza articolata. Diciamo una cosa, innanzitutto ricordiamo che Roma vive una situazione abbastanza anomala, perché lei sa che nel 2008 è stato preso il debito di Roma e è stato messo direttamente in gestione allo Stato, quindi tramite un commissario straordinario governativo. Quindi già, e lei sa che per gli altri comuni questo è un bel regalo a Roma, scusi, è chiusa parentesi. Perché questo... I romani però contribuiscono assolutamente con le loro tasse, sì. Oltre 200 milioni, quindi diciamo per un buco che riguarda, diciamo, amministrazioni che hanno sicuramente avuto, diciamo, la mano molto libera, ecco, da questo punto di vista. Non c'è dubbio. Guardi, le dico, allora, per quanto riguarda le eventuali criticità che vengono rilevate dall'Oref in merito alle passività potenziali, sì. Tali passività, come lei giustamente ha ricordato, sono passività che ormai sono endemiche di questa amministrazione. Quindi c'erano sia con Marino, ma c'erano anche con Tronca e c'erano anche con gli altri, con Alemano. Bisogna risolverle, questo è punto. Sì, vanno risolte, però non possono essere quelle le ragioni per le quali si dice che il bilancio previsionale di Roma Capitale non sia assolutamente, non possa avere un parere favorevole, altrimenti anche l'assestamento di luglio avrebbe avuto le stesse criticità che lei mi sta dicendo. Vero. Ecco, quindi io mi chiedo, allora, qual è la prospettiva? La prospettiva, giustamente lei me la sta chiedendo, io le rispondo, la prospettiva è innanzitutto una legge, che è quella alla Madia, che è appena entrata in vigore, che prevede degli impegni che sono oltretutto sanciti dalla norma in cui tutte le amministrazioni locali si devono confrontare, e quindi abbiamo come threshold, no, come soglia, il 31 marzo del prossimo anno, nella quale appunto l'amministrazione è chiamata a dare un'idea di quella, di quello che dovrebbe essere il quadro generale di organizzazione di tutte le partecipate. Roma Capitale ha partecipate, è vero che hanno degli sbilanci molto forti, ma hanno anche una redditività molto alta, pensiamo ad esempio ad Acea. Allora, quindi io ritengo che nel momento in cui si fa un ragionamento generale, facciamolo non soltanto sulle partite correlate, ma anche quelle che sono le potenzialità delle imprese. E su questo l'OREF non mi sembra che abbia dato alcun tipo di valutazione. Probabilmente per il prossimo anno Acerias riesce a staccare un dividendo di oltre 70-80 milioni di euro. Quindi, sinceramente, in tutta questa operazione Roma sta facendo uno sforzo incredibile. Questa amministrazione è ancora di più cercando di portare un bilancio in approvazione entro il 31 dicembre. Purtroppo questo non è stato possibile, sono state sollevate criticità che erano già presenti. Però lei pensa ce la farete per estendere di legge il 28 febbraio? Ma guardi, assolutamente, il bilancio è quello che noi abbiamo presentato. Infatti lei stesso confermava che l'OREF non ha alcun, diciamo, non ha sollevato alcuna criticità in merito alla sostenibilità del bilancio per quanto riguarda la parte corrente, neanche per la parte degli investimenti. Però, assessore Mazzillo, mi scusi, perché il suo collega Berdini ha lanciato questo allarme ieri, ha detto: o lo Stato ci dà i soldi per la manutenzione straordinaria della metro A e B, oppure già in primavera rischiamo la chiusura. E lei conferma? Allora, no, allora le spiego. Il ragionamento dell'assessore Berdini, del collega, è legato più che altro a quello che è ormai diciamo un intervento che il governo ha reso disponibile per tutti i comuni. Parliamo dei patti per le città. Quindi su questo giustamente il collega Berdini dice: questa è una città che ormai per diversi anni non ha avuto alcun tipo di manutenzione, si è completamente persa questa invece buona prassi, che è quella di mantenere in buono stato tutta quella che è la rete infrastrutturale della città. Questo non è avvenuto. Chiaramente lei sa meglio di me qual è la percentuale di gradimento delle strade. Se io faccio una manutenzione continua e costante, la strada rimane integra. Se comincio a non fare più manutenzione, a un certo punto arriva un piccolo incaduto. Ma quindi servono dei soldi? Questo patto per Roma servirebbe? Beh, diciamo che sicuramente non è tanto una questione di soldi, perché probabilmente l'amministrazione ha una sua solvibilità anche abbastanza ampia. Il problema riguarda quello che i collegi dei revisori hanno detto, cioè gli spazi finanziari. Ho la possibilità di spendere questi soldi? Per fare un esempio, per quanto riguarda il ferro, prima nel famoso ex patto di stabilità interna non venivano considerate quelle che erano le spese per il ferro, quindi per tutto ciò che poteva andare a portare un beneficio nella viabilità della città. Adesso questa previsione non c'è più, e quindi chiaramente dobbiamo integrare all'interno di quelle che sono le previsioni di spesa per investimento anche questo tipo di costo. Ma non ho capito se chiedete qualcosa allo Stato centrale. Noi chiediamo allo Stato semplicemente di supportare un piano di investimenti importante per la città che possa portare da qui a poco tempo veramente un cambio di passo anche nella vivibilità dei cittadini romani. Nel frattempo, assessore, manco il Capodanno, mamma mia, si riesce a trovare lo sponsor, non si riesce neanche a fare i soldi. Ma guardi, secondo me la città deve rinascere, ma deve rinascere dai romani stessi. Cominciamo a riappropriarci la nostra città e a crederci profondamente. Questo è il passaggio che noi abbiamo fatto e abbiamo provato a fare con questo bilancio. Lo ripresenteremo chiaramente le integrazioni chieste dai revisori. Come dice lei, effettivamente le considerazioni sono tutte considerazioni plausibili e anche ben articolate, ma non possono essere addebitate a questa amministrazione. Noi stiamo lavorando, stiamo internalizzando la Tari, stiamo cercando di lavorare anche sui nuovi regolamenti per le concessioni, per avere veramente una disponibilità di risorse aggiuntive e integrative. Lavoreremo sulle banche dati. Stiamo lavorando per l'integrazione delle stesse. Assessore, al di là delle tante cose tecniche, io le faccio un'ultima domanda che, per così dire, di temperatura politica. Chiedo a lei personalmente, non ci risponda non diplomaticamente, lo capisco che uno deve essere diplomatico quando ha una responsabilità così delicata, però sì o no? Cioè, siete lei e i suoi colleghi in questi due ultimi giorni, siete consapevoli che quello che fino a questo momento si è visto da parte della Giunta produce quello che si vede nei sondaggi, cioè che state portando una delusione alla vostra base, ai vostri elettori, sì o no? Guardi, io credo che semplicemente il problema vero di questa amministrazione sia che non riusciamo a comunicare esattamente tutto il lavoro che stiamo facendo. Credo che sia questo il vero problema, perché in realtà la città la stiamo cominciando a sentire, ma stiamo anche cominciando a lavorarci profondamente dentro. Le assicuro che come lei ben sa, per fare una gara, per impegnare soldi che non sono i nostri ma che sono quelli dei cittadini, bisogna seguire le norme. No, le norme sono comunque richiedono comunque un impegno anche nella costruzione di gare, nel trovare anche soggetti che abbiano voglia di investire nella città, a cominciare gli stessi lavoratori, ecco. Quindi sì, è un lavoro importante, lo stiamo portando avanti. C'è un problema di comunicazione, soprattutto. Però è, secondo me è un problema di comunicazione. E lei, tempo, credo che in una prima intervista disse: faccio l'assessore a bilancio anche perché chi lo farebbe? Sono l'unico a fare, a poter fare l'assessore, l'unico pazzo forse. Beh, perché c'è stata Minenna di Dominici, no, eccetera. Cioè, No, diciamo che non era tanto quello il discorso. La logica che si era portata avanti fino a quel momento era quella di cercare delle figure che avessero una caratura anche a livello, sì, diciamo pubblico, conosciute, eccetera. Sì, ovviamente io avevo già lavorato e avevo anche seguito molto bene quella che era la contabilità economica patrimoniale di Roma Capitale, quindi conoscevo tutte le varie, sì, magagne, avendo lavorato anche nella commissione. Sì, però non era famoso, diciamo, non era un nome. Beh, ora, diciamo, per me la cosa importante adesso veramente è costruire una proposta programmatica per il prossimo triennio che abbia valore, che crei valore a tutti, soprattutto ai nostri cittadini e alle imprese che si aspettano, diciamo, uno scatto di reni. Lo so, intanto, anche assessore, non devo ricordarle io che la politica purtroppo non aspetta molto tempo. Quando, quando si danno un'impressione di questo tipo bisogna accelerare. Però, insomma, auguri, buon lavoro. Buon lavoro, ovviamente. Grazie, assessore al bilancio di Roma, Andrea Mazzillo. Grazie per essere stato con noi. Allora andiamo un attimo in pubblicità. Poi sono i nostri ascoltatori, caro Oscar. Quindi non ho capito se tu dicendo: ma perché protesti tanto per le banche? Sei un ribassista. Ragazzi, se siete felici delle banche italiane, siete figli di un manager bancario, allora questa è la mia risposta. Comunque andiamo in pubblicità, ma non ho capito se hai portato il portafoglio, perché c'è anche il comune, no, di Roma. No, il portafoglio per il momento lo lascio. I miei figli fanno aeroplanini con le banconote oramai, ah, per quello che valgono. Ma con quale? Da 500? Da 100? No, quella 500 a casa mia non entra, perché c'è un finanziere sotto all'ingresso del palazzo. Okay. Mai vista una da 500. Pubblicità 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, qui c'è Gennaro che ci chiama da Pisa. Buongiorno, Gennaro. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci. Ma lei ci parla a nome dei ladri di Pisa o a nome delle guardie di Pisa? No. Io le parlo perché sono molto arrabbiato su questa situazione. Sì. Io, sì, è una cosa che doveva essere fatta, secondo me. Ma comunque, cioè, non che la cosa condivido. Ce lo spieghi? Che cosa? L'intervento di Stato. Salvare il Monte dei Paschi. Sì, il Monte dei Paschi, altrimenti, secondo me, s'andava peggio. Però assolutamente non la condivido. Quando si parla di Monte dei Paschi, non lo so, mi viene in mente sempre D'Alema, Bersani, e mi viene in mente Fassina, che per 30 anni hanno sempre detto facciamo qualcosa per i cittadini, ma non hanno fatto mai niente. Fassina o Fassino? Fassino. No, l'ex sindaco di Torino. Fassino. E quindi il deputato, in effetti. Sì. L'attuale deputato Stefano che è uscito fuori dalla e lui trattava con i Monti dei Paschi, andava con la valigetta. Comunque, al di là di tutto, aveva i suoi contatti. Attenzione però a queste frasi, sono documentate. Vabbè. Andava lì a trattare per riuscire ad avere qualcosa per i cittadini, si dice, per i cittadini, ma non si è avuto mai niente. Comunque, al di là di tutto, la cosa è questa. No, stai attento a queste frasi, insomma, poi uno si deve assumere la responsabilità di quello che dice, vabbè. Sì, assolutamente. Tanto mi manca solo di andare in galera. Per il resto. Vabbè, comunque lei dice bisognava farla questa cosa, però è contrario. Però comunque Gennaro, io la invito a riflettere, vedrà che sulla stragrande maggioranza dei grandi giornali italiani oggi, nelle 2-3 pagine che in media tutti dedicano a tentare di spiegare come funzionerà questo decreto, perché questo decreto, a seconda di come fa il ristoro degli obbligazionisti, viene letto dall'Unione Europea e dai mercati in una maniera o nell'altra, quindi è un punto molto delicato. I più difendono questa dichiarata intenzione di violare la direttiva europea da parte del governo italiano, ma lei non troverà su nessuno dei grandi giornali italiani almeno un articolo che ricordi a chi legge: guardate che questa banca per anni e anni e anni, per 20 anni dopo la riforma delle fondazioni bancarie, l'abbiamo lasciata attraverso la fondazione MPS che governava la banca nelle mani del partito che ha governato sempre storicamente quella città, e tutto nasce di là. E vede, l'abilità della politica ha lasciato a bollire in decozione MPS per un bel po' di anni, e a che alla fine, quando lo Stato con i soldi dei contribuenti deve intervenire, nessuno più dei grandi colleghi autorevolissimi giornalisti si ricorda di dire ai lettori che questa è la vera ragione. Però sa com'è, la politica è abile. C'è Renzo invece, ci chiama da Vercelli. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, sono un ascoltatore. Volevo rifarmi con i tempi veloci per all'inizio dell'immigrazione. Perché nessuno dei media spiega bene qual è la motivazione che porta a importare queste povere persone? Perché soffrono per mesi e poi si trovano lì sulla spiaggia con 6 o 7 mila euro per pagare i trafficanti. Ma chi glieli dà questi 7? Perché non è... Magari, è impensabile che gliele lasciano in tasca. Chi gliele dà? Ce lo dica lei, ce lo sveglia. No, questo bisogna che dovreste scoprirlo voi chi gliele dà. Certamente è organizzato. In più si parla forse di forse saranno i risparmi di una vita, forse saranno prestiti di parenti. Come fanno? Siccome questi qui vengono sopportano ogni tipo di sofferenza, no? Sicuramente i loro aguzzini non gli lascerebbero 6 o 7 mila euro in tasca per prendere il gommone sulla spiaggia. Vuol dire che tutto organizzato. Ma da chi? Perché lei dice, sembra che sembra che abbia la risposta. Le grandi reti criminali gli levano fino all'ultimo euro dalla tasca. Proprio per ecco, allora come fanno a trovarsi lì e pagare gli scafisti? Poi un altro discorso che grida un po', è un insulto all'intelligenza, telefonai anche alla RAI perché al telegiornale arrivano con i barconi, sono dei gommoni che sono fatti, non puoi fare un gommone grosso così dove vuoi sulla spiaggia. Ma lei dove vuole arrivare? Non ho capito. Voglio dire che queste masse di queste migrazioni sono canalizzate, e poi c'è da chiedersi cui prodes, dove vanno, in quali locali vengono accolti. Vengono accolti in locali lasciati vuoti da in precedenza, che appartengono io Renzo, sa che Renzo l'Azione Cattolica, sa che Renzo sono un po' tocco, non riesco a capirla. Cioè ci sta dicendo, se ho capito bene, che c'è un disegno, una strategia, ma che ci siano grandi reti criminali dietro è notorio. Sì, le reti criminali, sì, che no, quelli che ci sia una strategia più... Se poi lei dice che invece è pianificato gli interessi italiani, guardi, se ha elementi vada in procura, ma guardi, ma non l'ha detto fino in fondo, non infatti, lo so. Alludeva Renzo, va bene. Tu ti ricordi, Oscar, che avevamo parlato del museo del fascismo che arriva a Predappio, messa così, una storia ricorrente nelle cronache italiane. Predappio, tra l'altro, sindaco del PD, lo chiamammo Giorgio Frassinetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Ci sarà questo museo? Abbiamo letto che arrivano i fondi dell'Unione Europea. Allora, quelli sono i fondi strutturali. Cioè, voi sapete che le regioni gestiscono i fondi strutturali, in questo caso sono il PORFEST, sì. La regione Emilia Romagna ha 6 assi, e io ho partecipato all'asse FIG, quello che dava soldi, sì, per la cultura, che avessero però una forte valenza di tipo turistico, e avevo chiesto 2 milioni, me ne ha dato 1. Un milione dall'Unione Europea, beh, meglio che niente. Però lei ha già detto varie volte, in varie interviste, non sarà un museo celebrativo, ma un museo che ovviamente dovrà, come dire, ricordare un momento della nostra storia, anche drammatica, soprattutto drammatica. Però lei si attirò anche molti strali, sindaco del PD, ma come fa il museo al fascismo? Adesso utilizziamo i fondi europei per fare il museo al fascismo? Direi proprio di sì, voglio dire che l'Europa non sembra che stia molto bene, e se non si crea una rete museale o comunque un qualcosa che si ricordi sul perché è nata, è capace poi di affrontare i problemi che fa fatica a risolvere, come l'immigrazione, come l'economia, cioè, noi non possiamo pensare che l'Europa è nata per un motivo. Cioè, basta guerre, abbiamo sconfitto i totalitarismi, è bene che ce lo ricordiamo. In Germania ha fatto meno storia, ha fatto proprio un centro studi sul nazionalsocialismo a Monaco, proprio nel palazzo del partito nazista. Sì, sì. Come... ci hanno messo 28 milioni di euro. Ci spieghi molto praticamente come potrà essere un museo che non sia per nulla celebrativo? Cioè, qual è il tenore? Io di mestiere faccio il geologo, quindi ho dato l'incarico all'Istituto Parri di Bologna. Si può dire tutto, ma non che sia vero. È lo stesso che sta facendo l'Istituto Storico, il Museo della Resistenza a Milano. Quindi ho dato loro l'incarico di produrre un'ipotesi museale con centro studi. sì, c'è un comitato scientifico diretto da Marcello Flores dell'Università di Siena e presidente dell'IMSLI. Sono tanti personaggi, non solo italiani, studiosi, anche esteri. Insomma, io mi affido a loro, sì, e poi dopo alla fine prenderò delle scelte. Chiaro, poi dopo si vedrà. No, no, ma è, perché sa, Predappio è anche meta, lei l'ha detto varie volte, molti nostalgici, molti che vengono vestiti, che magari diranno, beh, adesso ci abbiamo pure il museo. Ma è proprio questo il tema, dobbiamo lasciare Predappio in mano a questa gente. Io sono nato a Predappio, Predappio ho sempre avuto sindaci di sinistra, no, molti non ci credono, ed è sempre stato così, è una comunità solidale, solo che conta ancora oggi il fatto che c'è nato Mussolini e c'è sepolto, ed è la sua notorietà, l'identità, sì, questa, chiaro, chiaro. Allora cosa facciamo? Vogliamo essere utili. Invece di diventare una Düsseldorf, no? Una San Marino del fascismo, dove tutti vengono a comprare queste orrende di manganelli, sì, oppure vestiti anche da gerarchi, da balilla, cioè non è che, non è che uno anche vestito da gerarca entra nel museo del fascismo. No, anche persone in età matura che vengono in una sorta di carnevale, in realtà la gente che viene a Predappio si è modificata nel tempo. Beh, anche perché le generazioni passano, non ci sono più gli ex. E la curiosità aumenta. Una curiosità di tipo storico, cercare di capire qualcosa. Comunque, io apprezzo il fatto che si cerchi anche appunto di sedimentare, cristallizzare attraverso la comprensione storica fenomeni che purtroppo anche la stampa, mettiamoci la nostra autoresponsabilità, Lino, noi preferiamo la cronaca facilmente, che riduce tutto a fondi europei. Io mi metto anche nei panni del sindaco che ogni volta viene chiamato questo, avanti, facciamogli fare la parte del filofascista, anche se non è così. No, scusi signor sindaco, io ogni tanto faccio un po' di autocritica, parlo per me. Ma giustamente, perché la cosa più divertente è questo, no? Perché poi dicono, ah, tu quindi farai un museo, esatto, e ti vorrai anche guadagnare. È chiaro, lo fai persone, per i turisti, anzi, ti eleggono gli albergatori e i ristoratori. Ma insomma, verità, con la cultura si potrà mangiare, ma certo, no? Come dicevo, no, però non siamo in un momento storico dove ci possiamo permettere dei debiti. Cioè, non so, se io faccio una cosa con i soldi pubblici, non posso rimetterci 200, 300, 400 euro l'anno. Devo arrivare almeno a parenti. Non le devo ricordare quel grandissimo vino romagnolo che infatti si chiama Paga Debit, che se fosse stato nella bandiera del ministro del tesoro italiano ci avremmo guadagnato tutti, però vabbè. In ogni caso, insomma, 1 milione di fondi europei verranno utilizzati anche per questo museo che ha fatto molto discutere, farà ancora discutere, però insomma il sindaco ci sta spiegando che verrà fatto con tutti i crismi, con tutti i comitati scientifici, per una un recupero di un valore storico, insomma, quella dobbiamo cancellare. Per metterlo nella giusta luce, al di fuori delle militanze o delle cose. La storia è la storia. La storia in Germania sono usciti e lì c'è stato, guarda, una ripulizia vera e profonda, non è come in Italia che hanno fatto tutti finta di essere antifascisti il giorno dopo. È chiaro. Lì sono passati attraverso 30 anni di polvere e cenere sul capo, fatta attraverso l'approfondimento storico, la propria responsabilità. Allora, nel ringraziare Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio Forlì, caro Oscar, io ti abbandono. Io il 16, stavo dicendo il 9 16. Gennaio. Ma può essere 16. No, se ce la 9. Fai il 16, io sono con te perché fai benissimo e sai che gli ascoltatori lo sanno bene. 9, mi 9. Lasci col comandante dei carabinieri indagato, con Lotti indagato. Pensa un po' come mi lasci e io ti invidio. Magari indagano anche me adesso. Mettimi in una valigia e portami via perché non ne posso più. No, dai, Ale. Salutiamo. Buon Natale, salutiamo i nostri. Salutiamo tutti, anche Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, grande. Il nostro Peter Bischia per regia. Però la Radio 24 continua, Oscar continua. Io sono qua il pomeriggio, domani con Contrabbia, ci sono sempre, c'è problema. C'è anche sabato, urliamolo insieme, Oscar. Urliamolo, c'è anche sabato, urliamolo c'è davvero, anche sabato. Ma in altro senso. Comunque, un abbraccio ad Alessandro. Ciao. Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.